Effetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Io intanto vi dico, arrivate al 4 dicembre senza l'ansia di dire che dal 5 dicembre arriveranno le cavallette in caso di vittoria del sì o del no. In caso di vittoria del sì ci sarà uno Stato, secondo me, più semplice e più funzionale e funzionante. In caso di vittoria del no rimarremo come adesso, in un sistema che per me non funziona, ma che non è un sistema antidemocratico, né nell'uno né nell'altro caso. Vincesse anche il no, non succederà assolutamente nulla, rimane la Costituzione attuale e si apre la possibilità di una riforma della Costituzione molto diversa e molto positiva. Vabbè, Campacavallo, una nuova riforma, Presidente. No, non è vero, perché dopo un no, credo che anche la sinistra debba prendere atto che una riforma costituzionale non si fa con una semplice maggioranza. Con par condicio, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, sia Renzi che Berlusconi ci rassicurano sul dopo voto. Renzi dice non arrivano le cavallette, Berlusconi dice non succede niente, anzi ha proposto, nella puntata registrata questa sera Matrix, dice di sedersi a tavolo con Renzi, soprattutto se vincesse il no, per fare le riforme insieme. Quindi siamo rassicurati, possiamo votare serenamente secondo la propria coscienza in un senso o nell'altro. E dopo queste rassicurazioni vi rassicuro che naturalmente parte a questo punto la puntata di Effetto Notte, tra poco come sempre il riassunto della giornata con i fatti principali che non potete perdere, così come non potete perdere come sempre l'approfondimento di vari argomenti dopo le 21:15, e ci sono i vostri due canali privilegiati come sempre per interagire qui con Effetto Notte, che sono la pagina Facebook del programma oppure il 349-238-6666, che è il numero per WhatsApp o SMS. 349-238-6666, pagina Facebook di Effetto Notte. Torneremo a parlare di meningite, perché dopo le due donne morte lunedì e martedì, ne abbiamo parlato qui a Effetto Notte, per l'infezione in Toscana, adesso c'è un bimbo di 8 anni ricoverato al Mayer di Firenze. Per fortuna le sue condizioni migliorano, però vogliamo chiarirci un po' di dubbi su questa emergenza meningite, che per il momento riguarda in particolare la Toscana, e poi molti altri temi. Ma intanto partirei subito con il dirvi quali sono i fatti principali. Referendum, la commissione antimafia chiede le carte sul caso De Luca per presunte pressioni a favore del sì. Lui ironizza sul reato di battuta. Firma irregolare per il Movimento 5 Stelle, c'è un caso anche a Bologna, 4 gli indagati, 10 avvisi di garanzia a Palermo, e Grillo dice fuori chi sbaglia. La previsione della Fed, il rialzo dei tassi di interesse può avvenire in dicembre, la conferma arriva dalle minute delle ultime riunioni della Banca Centrale Statunitense. La discussione sulla manovra, bocciata la norma sulla cedolare automatica per Airbnb. Violenza sulle donne, condannato a 18 anni l'uomo che a febbraio a Pozzuoli diede fuoco all'ex compagna incinta di 8 mesi. Ma quanto tempo resterà in carcere? Ha chiesto lei, angosciata. Potrebbe già essere in semilibertà tra 9 anni. Allarme sicurezza per le centrali nucleari in Francia. 12 reattori fermi, nascosti 400 dossier su anomalie. Stati Uniti, Trump sceglie la prima donna, Hale, ambasciatrice all'ONU. Meningite, un nuovo caso di infezione in Toscana, un bimbo di 8 anni. Stasera Effetto Notte il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità. Maltempo, allerta per il nord-ovest e soprattutto per la Liguria. Calcio in Champions stasera, tocca al Napoli contro la Dinamo Kiev. Partiamo quindi subito con la politica italiana e quindi con il dibattito sul referendum costituzionale, che si accende sempre di più intorno a una serie di polemiche che in realtà hanno poco a che fare con il merito del referendum per il quale si vota il 4 dicembre. Una campagna elettorale, quella referendaria, che non riesce ad entrare nei contenuti. Il fronte del no punta il dito sul voto degli italiani all'estero. Sento odore di brogli, dice dal Movimento 5 Stelle Di Maio. Abbiamo visto più volte che ci sono stati e potrebbero esserci anche in questo caso. All'attacco anche la Lega, che su questo punto parla con Pini di cialtronaggine del governo. Dall'esecutivo a replicare il ministro degli esteri Gentiloni. Capisco l'attenzione particolare per l'importanza della posta in gioco e tuttavia tutto ciò non può giustificare atteggiamenti, io credo, denigratori. La rete diplomatica consolare applica la legge in modo corretto e imparziale. Altro capitolo, quello legato al caso De Luca, con la richiesta di informazioni alla Procura di Napoli della Commissione Antimafia presieduta dalla Bindi su eventuali indagini in corso sugli audio in cui il governatore della Campania invitava 300 sindaci a far votare per il sì. Polemica anche in Rai intanto sulla par condicio. Il sì è favorevole partito va convocato il CDA, dicono tre consiglieri. In azienda vi è il massimo equilibrio, replica però la presidente Maggioni. Nuovo attacco infine di Grillo, che definisce Renzi il menomato morale che cincischia le sue protesi golpiste. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Oggi c'è poi la vicenda delle firme irregolari per il Movimento 5 Stelle. Dopo Palermo, dove ci sono 10 avvisi di garanzia, c'è un caso anche a Bologna, 4 gli indagati, mentre Grillo sul suo blog dice fuori chi sbaglia. Ne torneremo a parlare poi più tardi qui a Effetto Notte. Ora la manovra economica, bocciati gli emendamenti Airbnb della legge di bilancio, la Commissione ha respinto i tre emendamenti relativi alla cedolare secca del 21%, poi opzione donna viene estesa alle lavoratrici nate nei mesi di ottobre, novembre, dicembre del 1958 e alle autonome nate nell'ultimo trimestre del 1957 che hanno maturato 35 anni di anzianità entro il 31 dicembre del 2015. Intanto Padoan, il ministro dell'economia, lancia di nuovo l'allarme sull'evasione fiscale, dice il sommerso vale 190 miliardi, il 12% del PIL, cioè della ricchezza del paese. L'evasione va contro, dice il ministro, l'equità sociale. L'evasione va contro l'equità e l'inclusione sociale. Passi in avanti sono stati fatti nella lotta a chi bara con il fisco, ma molto resta ancora da fare. Così il ministro dell'economia Padoan in occasione della cerimonia di apertura dell'anno accademico della Guardia di Finanza. Occorre garantire una maggiore equità attraverso politiche che guardino con attenzione ai cittadini più deboli. E l'equità si persegue anche attraverso il fisco. 190 miliardi di euro, il 12% del PIL, tanto vale, dice il ministro, il sommerso in Italia. Un allarme dunque contro il fenomeno dell'evasione fiscale, ma intanto, dice Padoan, per imprese e famiglie il fisco è diventato più leggero. Nel complesso, i principali interventi di riduzione delle imposte comportano che su famiglie e imprese graveranno nel 2017 meno tasse per 23 miliardi di euro, 5. La riduzione della pressione fiscale è il caposaldo dell'azione di questo governo, ricorda anche il premier Renzi, una priorità perché l'Italia ha una pressione fiscale insostenibile. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. Restiamo adesso e parliamo della previsione della Fed. Il rialzo dei tassi di interesse può avvenire in dicembre. La conferma arriva dalle minute dell'ultima riunione della Banca Centrale statunitense. Restiamo all'estero in attesa di un suo videomessaggio. La nazione, Donald Trump sceglie Nikki Haley quale ambasciatrice degli Stati Uniti all'ONU ed è la prima donna della sua squadra. Sa tenere le persone insieme al di là delle appartenenze di partito ed ha una grande capacità di fare accordi. Per questo Donald Trump, con un annuncio ufficiale fatto attraverso lo staff che gestisce la transizione del presidente eletto, ha scelto la governatrice del South Carolina, Nikki Haley, quale ambasciatore degli Stati Uniti all'ONU. La Haley, che ha 44 anni ed è al suo secondo mandato da governatrice del South Carolina, dove è molto apprezzata, sarebbe così la prima donna della nuova squadra di Trump e pare abbia già accettato l'offerta del neopresidente. Durante le primarie repubblicane per le presidenziali aveva inizialmente appoggiato il senatore Marco Rubio, poi il senatore Ted Cruz. Figlia di immigrati indiani, ha pronunciato quest'anno la risposta repubblicana al consueto discorso sullo Stato dell'Unione tenuto da Barack Obama. Una risposta particolarmente apprezzata da varie frange del Partito Repubblicano, in cui aveva anche criticato l'estremismo di diversi candidati radicali, a partire dallo stesso Trump. Con la sua nomina, che potrebbe però incontrare ostacoli vista la scarsa esperienza in politica estera, Nikki Haley prenderebbe il posto di Samantha Power, scelta da Barack Obama nel 2013. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Fra l'altro si apprende che Hillary Clinton ha ottenuto oltre 2 milioni di preferenze in più di voti popolari rispetto a Donald Trump nel voto popolare appunto dello scorso 8 novembre, secondo i dati diffusi da Dave Wasserman dei Cook Political Report. Non cambia però il numero dei grandi elettori, il tycoon ne ha conquistati oltre 300, molti di più dei 270 necessari per vincere la Casa Bianca, anche se attivisti ed esperti informatici chiedono il riconteggio in 3 stati per la Clinton, in Pennsylvania, Wisconsin e Michigan, per il timore di voti manipolati. E poi una notizia che riguarda i rapporti tra l'Unione Europea e la Russia. L'Europarlamento accusa la Russia, dice finanzia campagne anti-Unione, e il presidente Putin contrattacca, dice un segno del degrado politico occidentale. C'è poi un allarme sicurezza per le centrali nucleari in Francia. 12 reattori fermi da tempo, vengono nascosti 400 dossier su alcune anomalie. A lanciare questo allarme il presidente dell'autorità francese sulla sicurezza nucleare. Di nuovo in Italia con la cronaca, è stato condannato a 18 anni di reclusione Paolo Pietro Paolo, il quarantenne che il 1 febbraio a Pozzuoli diede fuoco alla compagna all'epoca incinta di 8 mesi. Ma quanto resterà in carcere? Ha chiesto Carla Cagliazzo, la vittima angosciata dal pensiero che dal momento che l'uomo potrà tornare libero e potrebbe cercare di avvicinarsi a lei e alla figlia. Qualora la condanna a 18 anni diventasse definitiva, venendo confermata nei 3 gradi di giudizio, il ritorno in libertà per Paolo Pietro Paolo potrebbe avvenire in caso di buona condotta circa 4 anni e mezzo prima. Lo sconto infatti è di 45 giorni per ogni 6 mesi trascorsi in cella, scontata a metà della pena. Tra 9 anni dunque Pietro Paolo potrebbe già essere in semilibertà. Meningite, un nuovo caso, come dicevo all'inizio, di infezione in Toscana. È un bimbo di 8 anni e stasera effetto note, tra poco sentiremo il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità. Scioperi, piloti di Lufthansa fermi fino a venerdì, prolungata l'agitazione per 3 giorni consecutivi. E a questo punto l'allerta maltempo, sentiamo il nostro Paolo Corazzoni, Trebi Meteo. Paolo, mi pare che riguardi soprattutto il nord-ovest e in particolare la Liguria? Sì, buonasera Roberta. Ciao, sì, Paolo. In effetti è vero, ma anche perché in queste zone sono già caduti quantitativi di pioggia veramente rilevanti. Pensa che in Liguria abbiamo toccato in alcune zone già i 400-500 mm, che è la pioggia di 5 mesi caduta nelle ultime 3 giornate. E che succede? Che domani sarà una giornata molto difficile. Liguria, Piemonte saranno le regioni che vedranno piogge più diffuse e più intense, previsti fino a 200 mm che si aggiungono appunto ai 400-500 che già ho detto prima, e quindi insomma potremmo arrivare a situazioni anche a rischio idrogeologico con fiumi come lo Stour, l'Alsesia, il Tanaro, tutti che rischiano di esondare, ma anche la Lombardia, il Lambro e l'Olona ad esempio fiumi a rischio la giornata di domani, perché anche in Lombardia avremo piogge diffuse. E poi domani sera si sposta anche verso il nord-est e la Toscana, e venerdì però avremo già un'attenuazione, quindi è domani davvero la giornata più a rischio, ma sul serio per le regioni di nord-ovest potrebbe essere molto delicata. Quello che aggiungo è che però l'allerta è stata lanciata per tempo e con molta diffusione, quindi comincia a funzionare, mi pare, in Italia questo sistema di allerta, quindi speriamo che domani non dovremo poi ritrovarci a contare chissà quanti danni, però ecco, da quel punto di vista un passo avanti comincia a intravedere. Meno male, grazie Paolo Corazon, ci sentiamo venerdì se non succede niente nel frattempo, e speriamo. Ciao Paolo. Il ritorno ufficiale delle Spice Girls potrebbe essere arrivato, la notizia è trapelata in rete dove circola un leak del loro brano intitolato Song for Her, canzone per lei. Emma Bunton, Mel C e Jerry Horne stanno lavorando da tempo al progetto per il loro ritorno in occasione del 20° anniversario della pop band, generando molte attese tra i fan storici. La canzone ha fatto la sua comparsa in rete proprio ieri e ha avuto l'effetto di una vera bomba, insomma, tra i sostenitori, molto entusiasmo. Nel ritorno ufficiale della band però non saranno Victoria Beck e Mel B, che hanno invece rifiutato la riunione. Ora invece parliamo di un'altra squadra, quella del Napoli, con Giovanni Capuano. Ciao Giovanni, in Champions League. Sì, è serata di Champions, Napoli-Dinamo Kiev, siamo alla mezz'ora del primo tempo, risultato fermo sullo 0-0, partita questa del San Paolo che stenta a decollare. In questi primi 30 minuti il Napoli ha avuto un paio di occasioni con Mertens, che ha chiamato il portiere degli ucraini Rutko a 2 uscite abbastanza affannate al limite dell'area di rigore, e poi c'è stata una conclusione imprecisa di Insigne, però il Napoli non è ancora riuscito a creare i presupposti per segnare quel gol che serve assolutamente, perché questa nella penultima giornata comincia a essere una partita decisiva, anche se in realtà questo pomeriggio, nel tardo pomeriggio, da Istanbul è arrivato un brutto risultato. Dalla sfida tra Besiktas e Benfica è finita 3-3. Nel primo tempo il Benfica vinceva 3-0, risultato che avrebbe consentito questa sera al Napoli di qualificarsi automaticamente agli ottavi di finale con una vittoria contro la Dinamo Kiev. Invece il pareggio, tra l'altro maturato negli ultimi 7 minuti, perché il Besiktas è stato capace di rimontare 3 gol, tutti nel secondo tempo. Il pareggio obbliga questa sera il Napoli a non perdere, e comunque sia a non perdere nemmeno tra 2 settimane a Lisbona contro il Benfica. Quindi, in caso di pareggio a Lisbona e di non sconfitta questa sera per il Napoli c'è la qualificazione, però bisogna anche dire che Benfica-Napoli sarà un autentico spareggio molto complicato. Ti devo raccontare però purtroppo che dopo i 2 accoltellati di ieri anche l'immediata vigilia dell'inizio della partita è stata costellata da alcuni momenti di tensione segnalazioni di incidenti a fuori grotta, fuori dallo stadio San Paolo. In particolare ci sono state cariche da parte delle forze dell'ordine, fitto lancio di bottiglie, di pietre da parte di tifosi, pseudotifosi del Napoli, e c'è stato un episodio inquietante che fortunatamente è finito bene, ma che avrebbe potuto avere anche conseguenze diverse, e cioè un razzo è finito all'interno di un taxi dove oltre al tassista c'era anche almeno un'altra persona. L'auto ha preso fuoco, fortunatamente le due persone sono riuscite a uscire prima di restare coinvolte nel rogo. 32esimo, 0-0 a San Paolo tra Napoli e Dinamo Kiev. Grazie Giovanni Capuano, e grazie anche di averci raccontato il peggio del peggio, come al solito, spesso insomma, che contorna il calcio. A questo punto aggiorniamo chi sta viaggiando, vi ricordo per i vostri interventi pagina Facebook di Effetto Notte oppure il 349-238-6666. Silvia da Roma scrive: sono davvero ansiosa di partecipare al referendum Roberta Cara, devo prima affrontare un intervento chirurgico e spero di ristabilirmi in fretta perché non ho mai mancato una votazione in vita mia, speriamo bene, dice Silvia. Che senso civico, un abbraccio a Silvia. Ci sentiamo tra pochi istanti. Scegli Pantera col TH, scegli l'IRP di Infracom Italia per competere nel mondo. Vi presenta Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Roberta Giordano sempre con voi, le notizie tra poco ve le ricordo più in breve, avete sentito come sempre il riassunto all'inizio, adesso cominciamo invece a approfondire alcuni argomenti. E in questi giorni abbiamo parlato molto di meningite perché ci sono stati nuovi casi, nuovi decessi anche in Toscana, quindi anche ieri vedevo molte vostre domande, ne riporterò qualcuna al Presidente dell'Istituto Superiore di Sanità che sentiremo tra pochissimo. Intanto per i vostri messaggi c'è sempre la pagina Facebook di Effetto Notte oppure il numero per SMS e WhatsApp che è 349-238-6666. Per esempio dice Carlo da Latina: voterò no ma voto sì alla maratona elettorale che voi ed Enrico Mentana sicuramente farete, suspense meraviglioso. Allora ringrazio Carlo e dico di seguire in modo specifico Radio 24 più che Mentana, per quanto bravissimo naturalmente. E poi invece dice questo ascoltatore: Ulisse, Renzi ha voluto il referendum sulla sua persona pensando di vincerlo facilmente, si è sbagliato, penso che Renzi non possa rimanere premier allo stato attuale di estrema divisione che ha creato. Insomma vedremo, avete sentito all'inizio sia Berlusconi che Renzi rassicuravano sul dopo voto, poi quello che sarà lo vedremo. Allora, prima del primo argomento vi ricordo le notizie più importanti. L'antimafia chiede le carte su De Luca per presunte pressioni a favore del sì. Intanto Berlusconi dice: in caso vincesse il no, un tavolo con Renzi sono disponibile. Firma irregolare del Movimento 5 Stelle anche a Bologna, 4 indagati, e Grillo dice: via chi sbaglia verso le autosospensioni. E poi 500.000 morti circa l'anno in Europa per smog, nuovi allarmi. Lo smog resta il principale fattore ambientale di rischio per la salute in Europa, secondo il rapporto dell'Agenzia Europea, e il Parlamento di Strasburgo corre ai ripari, approva una direttiva per ridurre l'impatto dell'inquinamento atmosferico di circa il 50% entro il 2030. Diede fuoco alla compagna incinta, condannato a 18 anni, all'angoscia della vittima che dice quanto resterà in carcere, ne parleremo nel corso di Effetto Notte. Poi l'allarme del ministro Padoan che dice: il sommerso in Italia vale il 12% del PIL. E poi Haley all'ONU è la prima donna scelta da Trump come ambasciatrice appunto all'ONU. E poi il Cremlino finanzia i partiti antieuropei e lo scontro tra Putin e il Parlamento di Strasburgo. Lui risponde: siamo ormai al degrado. E pressing sui vaccini, la ministra Lorenzin dice: ci deve essere prima o poi l'obbligo di vaccini in altre regioni. Sapete che ieri è passata questa legge in Emilia-Romagna. E certamente un tema di approfondimento di questa sera qui Effetto Notte è la meningite. Nuovamente torniamo a parlare di meningite perché continua l'emergenza in Toscana, nonostante la campagna di prevenzione e di vaccinazione proposta dalla regione di cui abbiamo parlato. Negli ultimi due anni, ripeto un po' i dati, si sono avuti 74 casi di meningite nella regione toscana, 13 dei quali letali. Ieri l'ultima vittima, ne parlavamo proprio nella puntata di ieri, una professoressa di 64 anni residente a Viareggio che è morta ricoverata all'ospedale di Livorno dopo un mese di ricovero, e solo il giorno prima, anche lunedì, era deceduta una donna di 45 anni all'ospedale Santa Maria Nuova di Firenze, sempre a Livorno. Tra l'altro, lo ricordo, ne parlavamo ieri con il direttore dell'ospedale, sono in netto miglioramento le condizioni di una ragazza di 20 anni che anche lei colpita da meningite di tipo C. Oggi è stato reso noto il caso poi di un bimbo di 8 anni che anche lui è stato colpito dalla meningite di tipo C, ricoverato al Mayer di Firenze, all'ospedale dei bambini. Pare le sue condizioni stiano migliorando, tuttavia si apprende che il bambino era stato vaccinato nel 2009, cosa che ha mitigato questa vaccinazione l'aggressività dell'infezione, e però nonostante tutto è stato colpito comunque da meningite. Ne parliamo con il professor Walter Ricciardi, presidente dell'Istituto Superiore di Sanità. Professore, buonasera. Buonasera. Allora, chiaramente di fronte intanto a questa, non so se chiamarla epidemia in Toscana, c'è molta preoccupazione, c'è molta anche confusione, tra l'altro, perché appunto questo caso, non so se è l'unico, di una persona, in questo caso un bambino che era vaccinato, che questa cosa lo ha protetto in parte, però ugualmente si è ammalato. Allora, siccome gli ascoltatori tra ieri e oggi stanno facendo varie domande, io gliene farei alcune così secche, nel senso che si è capito che non si è capito per quale motivo ci sia questa concentrazione in Toscana, no? Ma guardi, la concentrazione deriva dal fatto, non è un'epidemia, è un focolaio epidemico, cioè estremamente localizzato. Non abbiamo certezze, ma è plausibile l'ipotesi che questo ceppo di batterio particolarmente aggressivo di meningococco C sia sbarcato da una nave da crociera a Livorno nel 2012, quindi si sia diffuso in qualche modo lungo quella fascia, localizzandosi in particolar modo in due aree. E in questo momento certamente c'è un focolaio epidemico che noi, insieme alla Regione Toscana e al Ministero della Salute, stiamo cercando di delimitare, offrendo la vaccinazione a tutti i residenti di queste due aree, diciamo, quindi distintamente, senza considerazione dell'età, vaccinando tutti. Quali sarebbero le due aree di preciso, professor Ricciardi? Quelle, diciamo, intorno all'Arno, per intenderci, quindi c'è Firenze, Prato e Isi poi anche. Appunto Livorno. Livorno è adesso, diciamo, con questi casi no. Dunque, intanto chi si deve vaccinare? So che più o meno 700.000 persone sono state vaccinate. Chi si deve vaccinare? Tutti in quelle aree o in tutta la Toscana? Sì, in quelle aree dove appunto la Regione Toscana ha circoscritto i focolai epidemici, in quelle parti di Toscana l'offerta della vaccinazione è attiva e gratuita per tutte le fasce d'età, ma in questo momento i target sono soprattutto le persone grandi, le persone adulte, diciamo, quelle che non sono vaccinate, perché io lo ricordo, da 10 anni esiste per tutti i nuovi nati l'offerta attiva e gratuita del vaccino antimeningococco C. Poi arrivo anche al caso di quel bambino era vaccinato, fortunatamente per lui che era vaccinato, perché ha preso diciamo la meningite in una forma leggerissima e di fatto i sintomi sono stati estremamente attenuati, perché il vaccino è protettivo nella stragrande maggioranza dei casi, però per ragioni individuali poi il sistema immunitario può in qualche modo rispondere in maniera differente. Però il vaccino è l'unica cosa che in questo caso gli ha salvato la vita, oppure in altri casi ha prevenuto addirittura l'insorgenza dell'infezione. Professor Ricciardi, quindi conferma, siccome tanti mi chiedono, io sono in Veneto, io sono in Lombardia, io sono in Campania, mi devo vaccinare, quindi solo in quelle aree della Toscana che diceva, non in tutta la Toscana e non in tutta Italia? In questo momento l'offerta della vaccinazione viene fatta in tutta Italia gratuitamente per i bambini. Chiaro che ci sono, dopo ne abbiamo discusso altre volte, delle famiglie che non vaccinano i bambini neanche con le vaccinazioni dell'obbligo, tra virgolette, o comunque, come in questo caso, la vaccinazione antimeningococco C non è obbligatoria per legge, ma è raccomandata e di fatto è obbligatoria scientificamente. Quindi in tutta Italia noi dobbiamo continuare a vaccinare i neonati e i bambini. In Toscana, nelle aree del focolaio epidemico, dobbiamo vaccinare tutti, perché quanto più è estesa la copertura della popolazione, tanto è più limitata la circolazione del batterio. In questo momento siamo a circa il 30% della popolazione, questa percentuale aumentata inibisce la circolazione dei batteri. Nell'altra parte d'Italia la vaccinazione antimeningococcica per gli adulti è una scelta individuale, cioè non è una scelta di carattere collettivo. Però se uno si vuole vaccinare va all'ASL, dice mi voglio vaccinare, pagherà il ticket e si vaccina. Se una persona sa che ha una grande mobilità, si deve muovere, oppure che per ragioni di studio o di lavoro deve frequentare degli ambienti affollati, perché la meningite si diffonde da ambienti affollati, quindi come possono essere scuole, discoteche, caserme, e allora in questo caso è consigliabile come scelta di protezione individuale. È obbligatoria per i bambini, diceva il professore, o no? Perché qualcuno dice perché non la rendono obbligatoria? Allora, in questo momento il retaggio dell'obbligatorietà di sole 4 vaccinazioni, che sono l'antipoliomielite, l'antidifterica, l'antitetanica e l'antiepatite B, è un retaggio appunto della Seconda Guerra Mondiale, quando i casi di queste malattie erano migliaia e allora lo Stato ha obbligato tutti a proteggersi. Da quel momento in poi si è preferito cercare di convincere i cittadini a vaccinarsi, quindi si dice vaccinazioni raccomandate, ma sono vaccinazioni obbligatorie dal punto di vista etico e scientifico. Cosa c'è di più saggio che proteggersi contro la meningite quando ormai abbiamo i vaccini che sono in grado? Non è obbligatorio, ma se una persona sensata ovviamente lo fa al proprio figlio e poi in certi casi lo fa anche a se stesso. Chiarissimo, grazie professor Walter Ricciardi, presidente dell'Istituto Superiore di Sanità. Grazie professore, buon lavoro. Buona serata. Pertanto, arrivederci. Grazie. Intanto ringrazio Francesco da Udine che chiede come va la mia bronchite. Va un po' meglio, per fortuna è un problema decisamente diverso, molto più leggero di quello che abbiamo sentito. Adesso invece passiamo a un altro tema, intanto vedo un messaggio che già precede, anticipa quello di cui parleremo dopo, però adesso ci occupiamo del caso delle firme irregolari che riguardano il Movimento 5 Stelle, prima a Palermo e poi a Bologna. Sono partiti i primi inviti a comparire oggi per gli indagati nell'inchiesta della Procura di Palermo sulle firme false per la lista del Movimento 5 Stelle alle comunali del 2012. Poi per quanto riguarda invece Bologna c'è un'inchiesta che ipotizza a carico di 4 persone la violazione della legge elettorale alle regionali 2014. Ma ci sintetizza tutto, ci chiarisce tutto Manuela Perrone del Sole 24 Ore. Manuela, buonasera. Buonasera Roberta, buonasera a tutti gli ascoltatori. Ciao, io ho fatto in estrema sintesi, però se tu ci spieghi meglio in cosa consistono queste due vicende di firme irregolari. Dunque a Palermo nel mirino ci sono le firme raccolte per le comunali del 2012 e si ipotizza la violazione dell'articolo 90 del DPR 570 del 1960 che punisce con la reclusione da 2 a 5 anni chiunque forma falsamente liste di candidati o usa atti falsificati. Nel caso palermitano si contesta sulla base delle rivelazioni di ex attivisti, un tratto che accomuna poi anche l'inchiesta bolognese, si contesta di aver copiato le firme perché i grillini si erano accorti di un errore nella data di nascita di un candidato, quindi la lista sarebbe stata invalidata. In una notte è stata praticamente si è deciso di copiare le firme. La procura indaga perché in realtà sembrerebbe che accanto alle firme copiate ci possano essere addirittura delle firme completamente false, cioè persone che non hanno mai firmato a sostegno di quella lista. Quindi se fossero solo le firme copiate sarebbe, diciamo, una cosa forse non di rilevanza penale, nel senso che c'era stato un errore e quindi hanno voluto rimediare in questo modo, però ci sarebbero anche delle firme rilevanza false. Penale, sì. Però è chiaro che proprio firme false di persone che ignoravano di aver sostenuto la lista sono punibili con un reato più grave, certo. Cioè il falso o il falso ideologico. A Bologna ancora non sappiamo con chiarezza qual è l'ipotesi di reato, per ora sembrerebbe la stessa di Palermo, ma l'ipotesi potrebbe essere diversa e cioè pare che le firme siano state raccolte anche fuori regione violando la legge. Nel caso di Palermo sono indagati due deputati dell'Assemblea regionale siciliana che si sono già autosospesi raccogliendo l'invito che era stato pubblicato sul blog di Grillo. Lo stesso Grillo, no? Esatto. Ma c'è molta fibrillazione in Parlamento perché invece i due deputati nazionali risultati coinvolti, che sono Riccardo Nuti e Claudia Mannino, resistono all'invito di Grillo e sembrerebbe, almeno fino ad adesso, che non procederà all'autosospensione. Da qui la decisione, oggi Grillo ha annunciato che venerdì saranno votati online i componenti del collegio dei probibiri, questo nuovo organismo previsto dallo statuto appena modificato. Un organo di garanzia, no, del Movimento 5 Stelle. È un organo di garanzia che dovrà procedere alle sospensioni, quindi se non decidono loro di fare un passo indietro sarà qualcun altro che deciderà per loro. Infatti Grillo ha sottolineato fuori chi sbaglia, insomma, dicendo chi anche sbaglia va via senza sconti. Grazie Manuela, scusami, prego. Volevo aggiungere solo una cosa, che nel caso di Bologna gli indagati sono 4 e il caso assume una rilevanza politica particolare perché c'è tra gli indagati il braccio destro di quello che è considerato l'esponente di punta del movimento in Emilia-Romagna, che è Massimo Bugani, un fedelissimo di Casaleggio, che non a caso dice: in realtà l'obiettivo ero io. Grazie Manuela Perrone del Sole 24 Ore. Ciao Manuela. E quindi avete sentito il riassunto della vicenda, adesso vediamo come proseguono le inchieste. Prosegue anche Fettonote, però ci prendiamo una piccola pausa adesso. Intanto Alessandra scrive al 349-238-6666, c'è anche la pagina Facebook di Fettonote, dice: salve, potete dare la notizia della manifestazione nazionale contro la violenza sulle donne in programma sabato 26 a Roma, Piazza Esedra, ore 14. Certo Alessandra, è una delle più importanti, ricordiamo che venerdì 25 novembre è la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Poi parleremo di un caso che riguarda purtroppo questo tema tra poco. Nuova Giulietta Winter Edition, optional per l'inverno, inclusi nel prezzo. Vi presenta i 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS e in video su radio24.it e su rds.it. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte, siete al posto giusto, nel momento giusto, anche con la giusta conduttrice Roberta Giordano con voi. Potete continuare con i vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte oppure al 349-238-6666. Abbiamo parlato di vari temi fino adesso. Adesso andremo su quello anticipato dalla ascoltatrice Alessandra, che parlava di questa manifestazione importante contro la violenza sulle donne a Roma il 26. Intanto però vi ricordo anche gli altri titoli importanti. Referendum, la commissione antimafia chiede le carte sul caso De Luca per presunte pressioni a favore del sì, lui ironizza sul reato di battuta. Intanto Renzi dice: il 5 dicembre comunque vada, non arrivano le cavallette. Berlusconi afferma: se vince no, poi al tavolo col premier. Firme irregolari per il Movimento 5 Stelle, c'è un caso anche a Bologna, 4 gli indagati, 10 avvisi di garanzia a Palermo, e Grillo dice: fuori chi sbaglia. La previsione della Fed, il rialzo dei tassi di interesse può avvenire in dicembre. La discussione sulla manovra, bocciata la norma sulla cedolare automatica per Airbnb. Violenza sulle donne, condannato 18 anni l'uomo che a febbraio Pozzuoli diede fuoco all'ex compagna incinta di 8 mesi, e di questo adesso parliamo. Ne parliamo perché è arrivata oggi appunto la sentenza per Paolo Pietropaolo, che lo scorso febbraio a Pozzuoli diede fuoco all'ex compagna Carla Cagliazzo. La donna, tra l'altro, era anche all'ottavo mese di gravidanza, è stata ricoverata a lungo in gravissime condizioni, in condizioni disperate in ospedale. È stato condannato quindi a 18 anni di carcere e a risarcimento di 300.000 euro nei confronti di Carla. Ne parliamo con Raffaella Calandra. Ciao Raffaella. Ciao Roberta. Quindi Raffaella, un'ordinaria storia di orrore, di violenza nei confronti delle donne, come ce ne sono purtroppo moltissimi. Il 25 novembre, ricordiamo, venerdì, la giornata internazionale contro la violenza sulle donne, e poi in questo caso specifico, no, lui ha detto addirittura: non volevo ucciderla, volevo solo sfregiarla, come fosse una cosa in realtà niente di che voleva farle. Sì, al di là lui ha detto anche di peggio, e devo dire che questa purtroppo è una delle storie, cioè sono storie ordinarie di violenza, ma questa è anche una delle più cruente, perché come hai ricordato lui aveva cosparso di un liquido infiammabile il corpo della donna incinta all'ottavo mese per poi lasciarla tra le fiamme. Fortunatamente Carla ha resistito, è stata per tanto tempo in fin di vita, ma è riuscita anche a dare alla luce la bimba che sta bene. Lui, dicevo, ha detto anche di peggio, perché come ha ricordato oggi il PM Raffaello Falcone in aula prima della sentenza, ha letto un messaggio WhatsApp che aveva mandato ad un'amica in cui scriveva: la bambina soffrirà. Un messaggio che gli inquirenti hanno letto come una chiara dimostrazione della premeditazione di questo gesto che ha avuto una condanna severa, anche se non ancora il massimo, soprattutto considerando che è il rito abbreviato, cioè lui aveva fatto ricorso al rito abbreviato confidando nello sconto di un terzo della pena, e ha avuto una condanna a 18 anni, che di sicuro è una condanna severa, visti i reati reati che gli sono stati contestati. La donna giustamente, che ancora insomma sta subendo tante operazioni, no? E infatti oggi diciamo ha seguito da dietro le quinte questo questa sentenza, mentre appunto l'uomo era in aula. Giustamente la prima cosa si è chiesta: ma quanto resterà effettivamente in carcere? Già. Perché poi questo è uno dei temi, purtroppo questo sì è un tema diciamo ordinario che abbiamo registrato tante volte, è un tema ricorrente di quanto spesso le condanne anche severe poi finiscano per essere scontate in una misura assai ridotta, perché per via dei legittimi anche sconti di pena, di tutti quei benefici che le leggi prevedono, fa sì che però a volte, non sempre giustamente, escano dal carcere troppo presto persone violente. Perché, ricordo Raffaella che di 45 giorni ogni 6 mesi c'è lo sconto, ogni 6 mesi trascorsi in cella, quindi per poi ci sono i sconti di buona condotta, eccetera. Tra 9 anni, c'era questo calcolo, potrebbe già ottenere la semilibertà. Bisogna vedere, allora questi sono calcoli che in linea teorica funzionano, poi bisogna sempre vedere applicati alla persona, applicati alla sua condotta. Allora, avere lo sconto di pena è un istituto che è previsto dalla nostra legislazione ed è anche un istituto diciamo legittimo, perché risponde a quell'esigenza per cui il carcere ha una funzione che deve essere rieducativa. Ecco, dopodiché ogni volta è sempre assai complesso andare a valutare l'effettiva rieducazione e la non pericolosità delle persone. Un caso per tutti, la vicenda di Angelo Itto, il nome che più viene in mente, la strage del Circeo, ecco, condannato per un delitto di quel tipo, rimesso in semilibertà, ha ucciso altre due donne. Quindi questo però non significa che per casi di questo genere poi non debba valere un istituto, che è un istituto appunto importante e che ridà anche una speranza di riconversione nella vita, di ritorno alla vita anche di persone che hanno fatto un percorso di pentimento, che è un elemento anche qui in questi casi assai importante. Non a caso, Roberta, ti ricordo le parole che la Suprema Corte, la Cassazione proprio oggi ha scritto nelle motivazioni della sentenza definitiva nei confronti di Luca Varani, l'uomo che ha sfregiato Lucia Annibali, che è diventata ormai un simbolo in Italia. È stato condannato, esatto, lei dimmi questa storia, è diventata un po' la bandiera della violenza contro le donne. Lui è stato condannato a 20 anni in rito ordinario e questo facendo le proporzioni insomma sta a significare anche quanto severa sia stata la condanna di oggi a 18 anni in abbreviato, ma la Cassazione appunto nel confermare anche questa pena altrettanto severa sottolinea come da parte sua non ci sia stato mai alcun pentimento. Raffaella, ricordo solo una cosa, che Carla Cagliazzo, la donna di cui abbiamo parlato prima nella sentenza che è arrivata oggi, insomma ha scritto una lettera a Mattarella dicendo: serve il reato di omicidio di identità, perché in questo caso di donne sfregiate, lei tra l'altro era bellissima, no? E spesso gli uomini nei confronti di queste donne, anche se non li uccidono, vogliono cancellare la loro bellezza e la loro identità, e lei ha chiesto a Mattarella in una lettera appunto serve anche creare un reato di omicidio di identità, perché poi la vita comunque cambia completamente, no? Per queste donne, che ha a che fare con una violenza che va a colpire quanto di più simbolico ci possa essere, come l'immagine, certo, il viso, l'identità appunto di una persona. E questa è la lettera che attraverso le colonne di Repubblica Carlo Cagliazzo aveva inviato al capo dello Stato. Grazie Raffaella Calandra. Ciao Raffaella, ciao, buona Roberta. Serata. Ciao, ciao. Viabilità. Nuova Giulietta Winter Edition, optional per l'inverno, inclusi nel prezzo. Vi presenta Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Rieccoci insieme, Roberta Giordano sempre con voi, grazie del saluto affettuoso di un ascoltatore. Adesso, tra poco, i titoli più importanti, i fatti principali di oggi. Abbiamo appena parlato di questo caso, di questa sentenza che riguarda l'uomo che ha dato fuoco alla sua ex compagna a Pozzuoli, tra l'altro incinta di 8 mesi e la condanna di 18 anni. Abbiamo parlato ampiamente. Adesso gli altri fatti, oltre ai vostri messaggi, continuate a scrivere sulla pagina Facebook di Effetto Notte al 349 238 6666. L'antimafia mafia che ha chiesto le carte su Vincenzo De Luca per presunte pressioni per il sì, e intanto Berlusconi e Renzi che cercano di rassicurare sul dopo voto. Renzi dice non arriveranno le cavallette, Berlusconi dice se vince il no faremo un tavolo con Renzi per le riforme. Poi firme irregolari che coinvolgono il Movimento 5 Stelle, oltre al caso Palermo c'è anche Bologna dove ci sono 4 indagati. Intanto Grillo avverte fuori chi sbaglia, si va verso le autosospensioni. E poi l'allarme dell'Europa, ci sono circa 500.000 morti l'anno in Europa per smog, e quindi il Parlamento di Strasburgo è corso ai ripari, ha approvato una direttiva per ridurre l'impatto dell'inquinamento atmosferico sulla salute di circa il 50% entro il 2030. Visto che parliamo di Europa, lo spazio europeo. Europa 24 notte. Arriva la certificazione anticorruzione, un'opportunità per le aziende europee e italiane che definisce i sistemi di prevenzione della corruzione, come spiega l'avvocato Alessandro Musella dello studio Bonelli Erede, intervistato da Livia Zancaner. Finora per le imprese era difficile avere una conferma della idoneità e della effettiva attuazione dei loro sistemi anticorruzione. Adesso c'è uno standard internazionale che definisce con precisione tutti i requisiti che un sistema anticorruzione deve avere. E quali sono i costi e i tempi per un'azienda che vuole aderire? Bisogna fare un'attività di confronto e di preparazione per capire a che punto si è rispetto allo standard e eventualmente fare qualche azione di miglioramento. Qui diciamo sono 3-6 mesi per prepararsi, dopodiché la certificazione avviene nell'arco di un mese e mezzo, 2 al massimo. I costi dipendono dalle risorse che la società vuole impiegare più che altro nella preparazione, se vuole rivolgersi a dei consulenti esterni, dopodiché c'è il costo dell'ente certificatore, dipende dal numero di dipendenti e dalle dimensioni dell'azienda. Invece quali sono i benefici per chi aderisce? Anzitutto si ottiene una conferma della bontà del proprio sistema anticorruzione, una conferma importantissima perché la conformità allo standard riguarda proprio l'avere un sistema idoneo a prevenire la corruzione e ad assicurare il rispetto con le normative anticorruzione. Tra l'altro questa conferma vale per tutti i paesi perché lo standard è internazionale, i requisiti sono uniformi e quindi è spendibile non solo in Italia ma anche in tutti i paesi in cui l'impresa opera. Questo riduce il rischio di sanzioni perché riduce il rischio di malpractice all'interno dell'azienda, cioè che ci siano comportamenti sbagliati, e comunque permette di dimostrare alle autorità che l'azienda ha fatto tutto quanto poteva. E può essere un incentivo anche per un investitore finanziario? Esattamente, perché gli investitori finanziari ormai sono sempre più attenti, soprattutto anche verso le aziende quotate, alla sostenibilità e a come le aziende rispettano i requisiti etici, tra cui anche quelli della prevenzione della corruzione. Sarà anche un vantaggio competitivo per le imprese sui mercati internazionali e anche sul mercato interno, perché avere la certificazione darà un vantaggio per ottenere le commesse in giro per il mondo. Molti governi vedranno con favore le aziende che avranno un sistema certificato con questo nuovo standard. Quindi può essere un aiuto per le aziende che partecipano alle gare d'appalto? Assolutamente sì, potrà essere utile anche in Italia, ad esempio col nuovo codice dei contratti pubblici, per ottenere il rating d'impresa da parte dell'autorità nazionale anticorruzione. Più aziende italiane aderiranno a questo standard e saranno certificate, più migliorerà anche l'immagine del nostro paese su questo tema cruciale che è la corruzione. Ci sono già imprese italiane che hanno aderito? Le posso dire che le maggiori imprese italiane stanno già lavorando ai progetti di certificazione, quindi si è cominciato a lavorare prima ancora che uscisse lo standard. Europa 24 notte. In collaborazione con Euronet Plus. E ora invece diamoci al calcio in Champions League. C'è sempre il nostro Giovanni Capuano col Napoli che mi pare... Siamo ancora lì. 0-0, ottavo minuto del secondo tempo. Il primo è stato da sbadigli, con praticamente nessuna emozione e nessuna grande occasione per il Napoli, che ha avuto soltanto un paio di chance con Mertens, che ha chiamato il portiere degli ucraini Rutko a due uscite. In questa ripresa la squadra di Sarri sta cercando un po' di alzare i ritmi. Si è visto un colpo di testa di Hamsik un paio di minuti fa, palla di poco sopra la traversa, e poi pochi istanti fa un salvataggio della difesa che ha rischiato l'autogol e ha messo la palla in calcio d'angolo. all'angolo. 0-0 che, lo ricordiamo, porta in questo momento il Napoli a quota 8 in classifica, primo insieme al Benfica, che si è fatto rimontare da 3-0 a 3-3 a Istanbul nel pomeriggio. È un risultato che consente al Napoli di tenere aperta la possibilità della qualificazione agli ottavi di finale, ma attenzione, perché così, finendo la partita, il Napoli tra due settimane non dovrà perdere a Lisbona contro il Benfica, e lo stesso accadrà anche se il Napoli dovesse vincere questa sera contro la Dinamo Kiev. L'importante è che il Napoli non perda questa sera contro gli ucraini. Senti Giovanni, abbiamo proprio 30 secondi per dire, Berlusconi ha detto che se non va in porto questa vendita si riprende il Milan. Sì, Berlusconi ha detto due cose in questa lunga vigilia del closing per la cessione del Milan, programmato per il 13 dicembre, ha detto è fatta, ma poi a precisa domanda cosa accadrebbe nel caso saltasse ha risposto: se salta io mi tengo il Milan, e tra l'altro ha aggiunto: me lo tengo con grande piacere, che è una novità, perché negli ultimi mesi lui aveva sempre fatto capire, insomma, di essere arrivato alla fine della sua storia di proprietario e presidente del Milan. Mi piace dire tutto e contrario di tutto, suspense, vedremo, intanto ci aggiorniamo brevemente alle 22. Ciao Giovanni.